Cioè, se... Forza, io dimmi. Leggendo un po' così, vedendo la realtà, secondo me modernizzazione e democrazia non possono oggi funzionare insieme, perché se un paese, io faccio l'esempio della Turchia, no? La Turchia ha sempre imitato il modello occidentale e oggi ad esempio non è un paese arabo, è un paese, cioè per me... Beh, mai stato un paese arabo. No, con l'impero ottomano comunque si è, con la laicizzazione nel 1920, no? Si è, ha introdotto la scrittura europea, si è, le donne non portano più il velo, quindi si è... Ringraziate Ataturk. Sì, però oggi ad esempio la Turchia, no? Ritorna molta nostalgia della cultura che c'era nell'impero ottomano, la religione sta riprendendo queste cose e e allo stesso tempo accresce la sua economia, no? Vuole diventare più forte. Dice, come stanno insieme queste cose? Non può permettere democrazia, non si può. Lei è non sarei così convinta che non si può avere democrazia. Lei è curda, sì. Attenzione, è interessante che venga da lei questa osservazione. Certo. Dimmi. Perché non lo so, io vedo questo, cioè io in Turchia non vedo una democrazia, cioè non concede democrazia realmente. Perché ha oggi si concentra principalmente sulla economia, sul potere economico e politico, sul diventare sempre più forte dell'Occidente, quindi deve mantenere la sua cultura per differenziarsi dall'Occidente. È un rifiuto dell'Occidente oggi. Per quello anche io la vedo così, anche l'India, la Cina, tutti questi stati anche arabi, la cultura è un punto forte che vogliono mantenere per differenziarsi. Che ne pensi, Alberto? Sì, diciamo che non affermerei drasticamente che la Turchia contemporanea non ha un sistema politico democratico, un sistema politico democratico largamente imperfetto, se vogliamo, però insomma c'è pluripartitismo e l'opposizione può esprimersi non solo in Parlamento ma anche nel Paese. Ho incontrato di recente proprio a Milano il vicepresidente del principale partito d'opposizione e faceva delle critiche pubbliche assolutamente che si fanno solo nei paesi democratici. Ha un certo pluralismo dell'informazione dei media, anche se c'è controllo, però ci sono Hürriyet diverso da altri quotidiani, eccetera, eccetera. C'è rule of law, governo della legge? Sì, abbastanza, perché c'è una divisione dei poteri, anche se c'è sempre il tentativo di far subordinare il potere giudiziario, però c'è una corte costituzionale e ci sono elezioni periodiche ricorrenti, quindi insomma poi siamo d'accordo, la politica verso importanti minoranze, a cominciare dai curdi e non solo ad esempio, o tutta una serie di violazioni di diritti umani, però molte di queste sono rientrate in parte nel processo che la Turchia ha compiuto per cercare di arrivare a rispettare i criteri dell'Unione Europea. No, infatti io questo dicevo, oggi la Turchia non vuole entrare. Ah, d'accordo. Adesso lei sta dicendo, però siamo in una fase in cui potrebbe riallontanarsi da questo. Questo può essere, non so. In effetti, anche per l'atteggiamento di molti paesi europei, adesso c'è molto meno entusiasmo. C'è molto meno entusiasmo per l'euro. Sì, ma sai, l'euro invece la Turchia ha una bella inflazione, cresce, comunque vabbè, comunque ho capito l'argomento. Da questo non però trarrei la conclusione che un processo di modernizzazione non possa creare anche condizioni favorevoli a un'eventuale instaurazione di un regime democratico. Quello che sta avvenendo in Egitto in questi giorni è molto interessante, cioè il fatto che in quel caso, contrariamente a quelli che dicevano va bene, d'accordo, le dimostrazioni di piazza deporranno Mubarak ma ritornano al potere i militari, un altro militare, non è vero, il primo presidente eletto democraticamente diventerà a sua volta una sorta di dittatore, ci sta provando, però non è detto assolutamente che ci riesca, quindi ci sono dei processi che sono favoriti anche da processi di modernizzazione anche in campo politico, anche se non è affatto un esito scontato. però, perché la modernizzazione contiene conflitto. Contiene conflitto. Su un punto, un commento rapidissimo, sul fatto che nel nostro tipo di democrazia, sono d'accordo che la qualità della nostra democrazia, liberal democrazia, democrazia rappresentativa, sia diminuita, sia declinante. Però in alcuni casi non sono d'accordo, cioè sul piano proprio dei diritti individuali. In alcuni casi c'è quasi una marcia inarrestabile per nuove libertà e nuovi diritti. Il Parlamento italiano ha appena approvato una legge che equipara totalmente i figli nati dentro la famiglia ai figli naturali. Non era così, completamente, sul piano dell'eredità, sul piano dei rapporti con tutta la parentela. Diciamo, anzi, eventualmente mette in discussione delle istituzioni consolidate come la famiglia, ma in nome proprio dei diritti individuali. La famiglia come entità collettiva è messa in crisi da un'affermazione sempre maggiore dei diritti individuali. Quindi l'individualismo rimane una componente fortissima nella modernizzazione occidentale. Allora, beh, tanto con me potete discutere anche domani e poi nel seguito, ma approfittate della presenza del professor Martinelli. Io approfitto. Avete entrambi descritto e problematizzato molto bene il tema della modernità e della modernizzazione. Il problema che mi pongo è, Aldo diceva, quello che possiamo individuare come minimo comune denominatore, se togliamo alcuni aspetti, è il discorso della tecnica. Però se cominciamo a togliere la lettera dell'autunno della democrazia, cominciamo a togliere un pezzo, non rimane moltissimo. Se rimane solo la tecnica, un po' mi spaventa. Certo. Cioè, a quel punto non so se la tecnica basta per parlare di modernità e di modernizzazione, soprattutto alla luce della grande crisi in corso. Cioè, arrivo alla domanda. Come possiamo immaginare il futuro della modernità alla luce della crisi? Cioè, i limiti ambientali che si pongono anche davanti alla... Io non sono assolutamente d'accordo con le teorie della decrescita, però mi rendo altrettanto conto che si vede un limite ambientale. Aldo la lezione ha parlato più volte, certo, del tema legati alla popolazione, al fatto che se dobbiamo garantire uno sviluppo economico ed alimentare a tutta una serie di paesi, si pongono delle contraddizioni incredibili dal punto di vista dello sviluppo economico, della produzione del cibo, energetico e così via. Cioè, sono tutti temi che rientrano anche nel discorso democratico, diritti civili, tutto quello di cui abbiamo parlato. Quindi la domanda è: la grande crisi in corso potrebbe segnare un inizio di cambio di paradigma, di regressione? Poi non possiamo prevedere probabilmente con esattezza cosa succederà, però la modernità, se si riduce solo alla tecnica, non rischia che svanisce, si modifica strutturalmente verso un qualcosa che ancora non conosciamo, ma che si presenterà in futuro? No, benissimo, hai fatto bene perché tra l'altro hai ripreso il punto centrale delle osservazioni di Aldo, cioè il fatto che obiettivamente si pone un problema alla teoria della modernità multiple, cioè capire che cos'è a questo punto il nucleo comune. E tu dici, ma in fondo non rimane molto altro che nella tecnica, la tecnologia, e quindi ci rialziamo a quello che tu dicevi. Io penso che ci sia dell'altro oltre alla tecnologia. Come ho detto, ci sono processi di differenziazione dei ruoli, differenziazione strutturale, indubitabili, questo è un tratto comune. Ci sono altri elementi che sono un complesso, quello che Wittrock, che è uno storico che però ragiona anche da scienziato sociale, quindi in questo senso è un personaggio interessante, che dice che la modernità contiene questo elemento di insieme, lui dice, di promesse e condizioni di vita che diventano, si globalizzano, e a cui i vari paesi danno risposte diverse. Cosa sono queste promesse, condizioni di vita? Sono aspettative, possiamo dire, più che promesse. La modernizzazione promette alle persone di migliorare le loro vite, solo che finora è declinata in modo dominante attraverso una crescita economica continua. E qui veniamo al cambiamento di paradigma. La promessa della modernità rimane, ma deve cambiare paradigma. Il paradigma è migliorare la propria vita senza aumentare continuamente la produzione di beni, ma intanto puntando magari un po' di più sul miglioramento della qualità dei servizi, e poi non attraverso semplicemente l'accumulo di continui beni materiali con un tasso di sostituzione sempre più rapido. Questo è il cambiamento di paradigma, perché altrimenti non è sostenibile dal punto di vista ambientale e neanche sociale. Cioè, se vogliamo in qualche modo ridurre le diseguaglianze e garantire l'accesso a beni, chiamiamoli di cittadinanza in senso lato, a chi non, c'è ancora, no, non li ha ancora, e quindi non parlo ovviamente dell'accesso all'acqua, al cibo e all'energia, che mi sembra assolutamente fondamentale, non parlo di bisogni primari, ma degli altri, sappiamo che questa situazione non è sostenibile, è stato detto più volte. Se il 1.300.000.000 e passa di cittadini cinesi, se 1.100.000.000 e passa di cittadini indiani consumassero, non come gli americani, ma anche solo come gli italiani e gli europei, non sarebbe sostenibile. Va bene? Allora, cosa speriamo? Continuiamo a sperare che gran parte degli indiani siano indù e quindi non mangino carne di mucca? Sì, speriamolo. Spero proprio, è fondamentale. No, questo, scusate, l'ho detto come battuto, ma è assolutamente fondamentale. I cinesi no, i cinesi mangiano carne e le mangiano sempre di più. Attento però, mangiano carni bianche prevalentemente. Sì, questo è meglio, certo, il pollame è meglio, sì, sì, sì, però che non consumano molta no, acqua. No, se andiamo a vedere però quanto consumano anche i polli, cioè, comunque diciamo il problema esiste. Allora, la promessa della modernità è anche migliorare le condizioni di vita in generale, che vanno dalle libertà a una situazione di benessere, alla sicurezza, eccetera. Questa promessa può essere mantenuta se viene profondamente ripensato il paradigma, che non può essere esclusivamente la tecnocrazia, cioè il dominio assoluto della tecnocrazia, il fondamentalismo di mercato, la produzione comunque. Ad esempio, voglio dire, tra gli effetti positivi ci sono della crisi economica italiana, c'è il fatto che si vendono meno automobili, è un dato positivo. Naturalmente è negativo per la Fiat, che però si arrangia, come vediamo, riesce a vendere di più in Brasile e va bene, ma è positivo perché noi siamo in una situazione folle, abbiamo 0,6 automobili per abitante dell'Italia, cittadino italiano, che vuol dire compresi i neonati e i paralitici, va bene? Non è sostenibile questa situazione, non si può vendere altri automobili, ecco, non si può. Produciamo auto per i paralitici, questo è un altro discorso, va benissimo, ma diciamo non è possibile, quindi bisogna capire che la crisi è un'occasione per cambiare anche il modello di sviluppo, lo si dice molto ma lo si fa troppo poco, speriamo. No, io vorrei aggiungere solo una cosa. Martino mi dice: ma qual è il futuro della modernità? Risposta semplicissima: futuro, quale futuro? Pensi ci sia un futuro? Beh, adesso non puoi concludere così, ma che realtà... anche la prossima settimana, per fortuna, che siamo via con questo, certo. No, ma telegraficamente loro sono giovani, poi il futuro ce l'hanno. Ragazzi, mettiamoci in testa una cosa, che qui l'unica cosa che le vede crescere, ed è questo il problema, è la pressione demografica, il genere umano. Non se i cinesi si mettono a consumare come gli italiani, semplicemente deve decrescere, se i cinesi semplicemente iniziano a consumare birra con i tassi occidentali, è la catastrofe ecologica mondiale per via dell'acqua, perché la birra è la bevanda che consuma più acqua di tutte, per cui basta molto meno, cioè se questi cominciano a bere birra con questa, con i tassi nostri, è una, siamo molto vicini. Allora, il problema centrale credo che sia questo: come facciamo a diminuire la pressione? Io non vorrei che qualcuno pensasse a un vecchio sistema efficacissimo per diminuire la popolazione mondiale. C'era la guerra. Sì, più di una volta l'abbiamo fatto. Non vorrei che pigliassimo quella strada. Allora, forza. Chi c'è? Dimmi. Volevo rivolgere una domanda a entrambi. Quale può essere il futuro della politica, almeno in Occidente? Cioè, riporto un esempio. Il sociologo Bauman, una decina di anni fa, ha affermato che una delle conseguenze più forti della globalizzazione è stato l'impoverimento della dimensione politica a favore di quella economica, soprattutto finanziaria. In particolare lui affermava che il potere non più politico è diventato globale e sovranazionale, quindi mentre la politica depaupera fondamentalmente del suo potere tradizionale è rimasta in qualche modo locale. Non so fino a che punto sia una prospettiva valida o attuale. No, che ci sia una crescita di un potere finanziario che non riesce ad essere regolamentato in modo adeguato, perché si colloca a un livello globale che è superiore alle capacità di controllo dei diversi sistemi politici nazionali, anche degli stati più potenti, compreso quello del governo americano, per intenderci. Quindi indubbiamente c'è questo potere in parte non controllato. È anche vero che la crisi finanziaria globale è servita a questo, nel senso di introdurre comunque alcuni correttivi. A livello nazionale purtroppo non c'è neanche accordo, però anche strategie differenti che portano a una minore libertà di azione comunque sono importanti, e questo sta avvenendo sia ai due lati dell'Atlantico. Gli Stati Uniti lo fanno in un certo modo, l'Unione Europea lo fa in un altro, ma lo fanno. Però rimangono tutta una serie di questioni apparentemente semplici da risolvere, che invece non vengono risolti, e che fa pensare che il potere finanziario sia obiettivamente molto forte, anche come capacità di influire sulle decisioni degli stati nazionali. Pensiamo, come esempio tra i tanti, i paradisi fiscali. È assolutamente insensato che ci siano territori, non sono neanche stati sovrani, territori, cioè che hanno, delegano la politica estera a un altro paese. Le isole Cayman, tanto per fare un esempio, che possono diventare paradisi fiscali in cui si possono esportare capitali senza controlli. Questo è insensato, che lo faccia la Svizzera. La Svizzera è uno stato sovrano, infatti adesso deve venire a patti, avrebbe dovuto venire a patti col governo americano, adesso col governo tedesco. Certo, non ci arriverà del tutto, perché per la Svizzera è fondamentale garantire l'anonimato, però con questi accordi che garantiscono l'anonimato ma fanno pagare le tasse comunque, questa è una via interessante se riesce ad andare in porto. Al buon cuore degli svizzeri che ti dicono i soldi sono tanti. Sì, certo. Ma tu non sai se è vero. Non solo, ma poi se, qui siamo nel solito dilemma, se fosse efficace, se fossero efficaci gli accordi, è probabile che i capitali emigrino verso altri paesi, e questo potrebbe il governo svizzero a fare marcia indietro. Se invece è efficace vuol dire, cioè se invece i soldi rimangono lì, vuol dire che comunque gli stati ricavano molto meno, comunque sempre di più di quello che ricavano oggi. Ma questo problema dei paradisi fiscali è assurdo. È assurdo anche, ad esempio, che uno dei paesi, degli stati in cui è più semplice esportare capitali con società fittizie, con il sistema delle scatole cinesi, senza controlli, è il Lussemburgo, uno dei sei stati fondatori dell'Unione Europea, che ha regole di gran lunga meno vincolanti di altri paesi. Tra parentesi, i fondi sovrani cinesi hanno deciso proprio nei giorni scorsi di passare dalla borsa di Londra a quella del Lussemburgo. Come mai? Perché il Lussemburgo ha regole molto meno stringenti. E quindi il Lussemburgo però è dentro l'Unione Europea. Perché non fanno qualcosa? Il Liechtenstein, pazienza, e non è nell'Unione Europea, ma è uno staterello che non credo. Come mai le Cayman Islands? Sì, può essere invaso immediatamente da 100 austriaci, non so. Ma insomma, come mai non si fa qualcosa per questi stati? Perché è comodo avere il capitale, naturalmente non è come il lavoro, il capitale emigra molto rapidamente, basta un click e sposti. Quindi questo è un problema serio. Ciò nonostante, diciamo, penso che sia pure lentamente ci sia un tentativo di ripresa di controllo, perché ne va anche della autonomia decisionale di quelli che rimangono pur sempre gli attori fondamentali della politica mondiale, cioè gli stati nazionali. La qualità della democrazia, certo che c'è un impoverimento, qui forse devo dare una delusione, non pensate che la democrazia si recupera con la democrazia della rete, lasciate dire queste cretinate a Casaleggio e a quelli che la pensano come lui, per intenderci. Non è vero. Anche i tweet, che sono un'ottima cosa, per carità, sono manipolabili e manipolati. Non pensate che sia la spontaneità della rete. Quando c'è un dibattito televisivo per delle primarie, ad esempio, immediatamente partono una serie di tweet a cui reagiscono gli altri e permettono tra l'altro di capire se uno è andato meglio dell'altro, se un messaggio ha funzionato meglio dell'altro. In questo senso l'analisi del tweet che facciamo qui in facoltà con un gruppo di nostri giovani e bravi colleghi è ottimo, è molto utile. Ma non, però pensate che questo dibattito non sia anche profondamente influenzato dai famosi spin doctor dei candidati, che buttano immediatamente in rete dei messaggi, è ovvio. Allora chi pensa che si risolva tutto con una meravigliosa democrazia della rete, per cui tutti sono in rete e uno dice: volete aumentare le tasse o volete migliorare i servizi sociali? Tutti cliccano e il governo fa così, è un'idiozia totale. Bisogna invece lavorare, qui Bauman, io sono d'accordo con Bauman, bisogna lavorare molto per migliorare tutte le occasioni di partecipazione a tutti i livelli, soprattutto decentrati, possibilmente in forme di democrazia deliberativa, perché la partecipazione è importante sotto forma di controllo. Quindi da un lato bisogna sempre chiedere a chiunque prenda delle decisioni politiche in quanto eletto, renda conto, deve sempre rendere conto. Chi finisce un mandato o anche a scadenze periodiche deve dire che cosa ha fatto dei denari nostri, delle nostre tasse, che cosa ha fatto della fiducia che gli abbiamo conferito, e deve spiegare esattamente perché ha realizzato certe cose, perché non ne ha realizzate altre, quali sono le sue ragioni, le sue interpretazioni e così via. Uno. Due, non basta neanche questo, non bisogna soltanto essere informati, controllare, vigilare, chiedere di render conto, ma bisogna anche partecipare il più possibile nei luoghi della nostra vita, a tutti i livelli, comitati di quartiere, assemblee scolastiche, quello che volete, diciamo, perché questo è un modo per dare sangue e anima alla democrazia, perché se la democrazia è solo il momento del voto, per quanto importante sia, e quindi bene che ci siano anche le primarie che moltiplicano le occasioni di partecipazione alla selezione della classe dirigente, però sicuramente è questo il modo per cercare di migliorare la qualità della democrazia. È difficile, e quindi su questo punto ha ragione a dire quale futuro, e come sempre però il futuro dipende anche da voi. È detto un po' provocatoriamente, certo, però il futuro come sempre dipende da noi e soprattutto da voi che siete giovani anche. Dica. Scusate ragazzi. Certo. Lo trova fastidioso e non penso anche proposto. Ma io direi che anche questo non dobbiamo avere, certo, sarebbe bello se tutti i cittadini di una democrazia, di un sistema democratico partecipassero con grande entusiasmo. Non è così, ebbene, ma la politica anche democratica è sempre stata il risultato dell'azione di minoranze attive. Bene, non c'è niente di male. Cioè, certo, quando i tassi di partecipazione elettorale scendono al di sotto di una certa soglia è male, ma se vota il 70% va benissimo, non c'è niente di male. Il rischio grave è quando vota il 99,9, allora sì che c'è da preoccuparsi molto, o quando vota il 20 o il 30, per carità, i due estremi vanno male, ma in mezzo che ci siano all'interno varie gradazioni di comportamento politico, che per alcuni sia solo la partecipazione al voto, per altri sia qualcosa di più, nel senso di leggere e informarsi, per altri sia ancora di più, cioè partecipare, come ho detto, gli organismi. Va bene, la democrazia è così, non richiede un impegno costante e generalizzato, meglio se partecipano più cittadini, ma però non esageriamo, è sufficiente per una buona democrazia avere minoranze attive. Dica. Io vorrei tornare un attimo sul tema delle promesse della modernizzazione, perché la mia impressione è questa, che se da un lato la modernizzazione induca ad avere delle aspettative delle promesse, dall'altro mi sembra che comunque ponga, diciamo, delle condizioni oggettive per cui almeno alcune di esse sì, cioè, è impossibile che si realizzino. Cioè, faccio un caso specifico per spiegarmi meglio. Per quanto riguarda il tema della democrazia, un libro che ho trovato molto interessante è Il Principato Democratico di Zolo. Lui afferma che l'aumento della complessità, che comunque è una caratteristica tecnologico, di fatto disperde la possibilità del singolo di incidere nei processi decisionali, e quindi lo sviluppo della tecnologia di fatto rende impossibile la democrazia. E questo secondo me si nota anche sul versante teorico, nel momento in cui comunque tutte le teorie democratiche mi sembra che abbiano rinunciato a una qualunque forma di sostanzialità a favore di teorie che sono puramente procedurali. Se pensiamo anche comunque al futuro della democrazia di Bobbio, lui dice che comunque la democrazia ha fatto delle promesse, che però queste promesse non si potevano mantenere, ma tutto sommato continuiamo a essere una democrazia. Sì, io sono più del parere di Bobbio, cioè non nella distinzione che a lungo la sinistra ha coltivato, una certa sinistra, secondo cui la democrazia formale e procedurale non è rilevante, ciò che conta è la democrazia sostanziale. Io ho sempre pensato invece che non è così, che anche la democrazia sostanziale ha assoluto bisogno del requisito della democrazia procedurale e formale. Dove non c'è questa, c'è rischio invece di svolte autoritarie, perché gli obiettivi della democrazia sostanziale possono essere benissimo perseguiti da un regime dispotico che dice: io vi rendo più uguali, io vi faccio stare meglio, io vi do più libertà, ci penso io. Invece la democrazia procedurale è fondamentale, cioè è fondamentale una situazione in cui il potere viene controllato da un potere altrettanto forte, in un sistema di pesi e contrappesi. Questo è assolutamente fondamentale, quindi divisione dei poteri, dove è possibile addirittura separazione dei poteri, cioè con dirigenza politica che è scelta in modo indipendente, con votazioni indipendenti, ma comunque già la divisione sufficiente, rule of law, regola della legge, competizione politica, pluralismo delle opinioni, tutto questo è fondamentale. Quindi la democrazia procedurale va bene. Io non sono d'accordo che la complessità sociale sia necessariamente, renda necessariamente impossibile la democrazia. Sono d'accordo con Zorro su questo. Non la rende necessariamente impossibile. Naturalmente è una sfida, ma la democrazia ha molte sfide. E abbiamo detto, tra l'altro, che la teoria delle modernità multiple non pone una democrazia funzionante come una componente essenziale del nucleo, anche se io sono d'accordo con Aldo che per me la modernità che ha senso è una modernità che è anche politica, appunto democratica, meglio non politica, democratica, però obiettivamente in quella teoria questo non c'è, non è tra le promesse sono, come ho detto, tendono ad essere legate a un miglioramento delle proprie condizioni di vita in generale, che a volte includono anche le libertà e i diritti democratici, a volte no. Questo è un problema, sono d'accordo. Scusami, però conoscendolo, sì, ti devo avvisare che lui è un elitario terrificante, per cui non lo diceva preoccupazione, lo diceva con compiacimento, che finalmente non ci liberiamo di questo imbarazzante popolo che insomma, ecco, vedi, disturba un po', cioè, il popolo. Un'ultima domanda c'è? Io avevo una domanda. Dimmi. Sempre tornando al discorso di prima sulla modernizzazione, mi chiedevo, forse una bestemmia, però io ho l'impressione che anche l'uguaglianza, diciamo, sia legata in qualche modo alla modernizzazione, e non soltanto alla modernizzazione democratica, ma anche cioè, l'uguaglianza non è stata soltanto cercata da regimi democratici, ma anche da altri. Soltanto che questo valore mi sembra attualmente molto in crisi. Anche qui bisogna fare un ciclo di lezioni, non una sola. Diciamo che la democrazia promette innanzitutto la eguaglianza dei diritti e dei doveri della cittadinanza. L'eguaglianza economica e sociale è un'altra cosa, è già oggetto della competizione politica. Però io sono abbastanza d'accordo, posso concludere con la citazione di un autore che non è proprio più vicino alle mie corde, però è un grande filosofo politico. Sono d'accordo con Rousseau quando dice: non c'è democrazia non c'è libertà, ma diciamo, non c'è democrazia in una società in cui ci sia qualcuno così ricco da poter comprare un altro e qualcuno così povero da essere costretto a vendersi. Quindi le diseguaglianze ampie non sono favorevoli alla democrazia, e questo è un problema delle nostre società contemporanee. Sono assolutamente d'accordo. E io aggiungerei un'ultima cosa: l'eguaglianza ha senso solo in regimi democratici in cui viga il principio di libertà. Certo. L'Unione Sovietica, che prometteva eguaglianza, non era un regime egualitario, perché se tu hai il potere di mettermi le manette e io non ho il potere di resisterti, non siamo uguali. Non è solo il differenziale economico, è anche il differenziale di potere che conta. L'eguaglianza c'è solo se c'è libertà.